a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e il Blu Radio Veneto. Bentrovati a Regola d'Arte da Francesco Galante, nuovo appuntamento con la nostra rubrica in collaborazione con l'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Oggi parliamo di un corso interessante che viene promosso proprio dall'UPA Formazione. Vi leggo il volantino, dice: vuoi lavorare nel mondo della moda? Se hai dai 18 ai 29 anni, mettiti alla prova. Partecipa al corso Confezione su misura, organizzato da UPA Formazione. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le aziende del settore e finalizzata all'inserimento lavorativo. Prevede una parte teorica in aula e uno stage in azienda. E per capire un po' di più su questo corso, che si intitola Confezione su misura, abbiamo al telefono con noi Beniamina Zecchin, delegata provinciale e regionale dei Sarti, che proprio tanti anni fa aveva partecipato a un corso del genere e con questo poi ha iniziato un'attività. Benvenuta Beniamina. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, questo è un corso che l'UPA sta organizzando, sono corsi che credo si facciano quasi annualmente. Adesso è da un paio d'anni che non viene organizzato, ma stiamo lavorando proprio in questo progetto. Sei già stato in contatto con Ruzza, l'Istituto Ruzza di Padova, e perciò siamo in fase organizzativa, abbiamo già contrattato, ci siamo già incontrati con le varie aziende che dopo faranno lo stage a questi ragazzi, e il corso che io stessa ho fatto diversi anni fa mi ha aperto veramente un mondo a 360 gradi, ecco. Il corso prevede proprio questa parte di teoria in aula, con un corso 28 ore circa di inglese e poi 72 di teoria in aula. Quello che però è più importante sono le ore che verrà fatto di stage nelle aziende, perciò nelle sartorie oppure nelle aziende sartoriali che lavorano appunto come industrie. Perciò hanno una bellissima opportunità di questa cosa e possono trovare lavoro, insomma. Ecco. Ho capito bene, un corso di 28 ore di inglese? Sì. Sì, che verrà fatto dentro da un docente del Ruzza, perciò un professionista, dove verrà appunto fatto anche queste appunto 28 ore di inglese. Mi viene da pensare, ma serve l'inglese per confezionare un vestito? Adesso con tutte queste nuove tecnologie, perché vai sul computer e queste cose, si fanno tante definizioni in inglese, è prevista questa cosa e siamo ben contenti, insomma. È sempre un qualcosa in più, quindi. Certo, è una possibilità veramente in più, insomma, per cui all'epoca io ho fatto francese, per cui insomma, ecco. Va bene, interessante. Mi aveva un po' colpito questa cosa dell'inglese e per quello volevo chiarirla, però certamente saperne qualcosa in più su tutto non fa mai male. C'è tanto studio, tanta teoria, ma poi c'è la pratica che viene messa in collaborazione con delle ditte del territorio. Esatto. Cioè avere la possibilità di fare circa 300 ore in un'azienda, in una sartoria, questi ragazzi sicuramente sono privilegiati, anche perché sappiamo i corsi privati cosa costano, no? Questo prendono già una certa quota all'ora, per cui sono anche retribuiti in qualche modo, non grosse cifre, ma qualcosa le viene retribuito, e hanno questa grande possibilità di vedere dal tessuto all'organizzazione del modello, alle prese di misure e tutta la parte confezione praticamente, perché 300 ore non sono proprio poche. Ho capito, quindi addirittura viene previsto un piccolo rimborso per sì, chi dovrebbe farà essere circa 3 euro all'ora. Piuttosto che niente, mi viene da dire. Anche perché io mi auguro che abbiano più la passione, capito, la voglia, perché sicuramente quando tu entri in un mondo così della sartoria oppure nelle aziende di confezione, veramente se hai la passione ti innamori del lavoro, capito? Perché tu vedi realizzare un capo, insomma. Certo. Ecco. È quello che un po' è successo a lei quando l'ha fatto. Diciamo di sì, io vengo già da un'esperienza di 35 anni di insegnamento. Mi avevo incuriosito perché mia figlia lavorava lì a Lupa e aveva portato a casa questo volantino un po' su questo genere, dove si diceva che erano i migliori sarti di Padova che avrebbero insegnato. Siccome io lavoravo occasionalmente, per cui avevo la possibilità di partecipare, e posso garantire che per me oggi come oggi non sarei dove sono se non avessi partecipato a questo corso. Sarei stato nel mio piccolo orticello, fare la sarta in casa e fare l'insegnante, perché io facevo i corsi quelli privati, per cui ecco, vengo da questa esperienza di formazione, no? Però mi ha aperto una strada, che mi hanno invogliato ad aprirmi l'attività. Io avevo 50 anni all'epoca, per cui lei capisce bene che ho aperto questa attività e mi ha cambiato veramente il modo di vedere le persone, cambiare il mio modo di lavorare e tutto quanto. Veramente c'è stata una possibilità enorme. Io mi auguro veramente che questi ragazzi, se vengono con la passione per cui i docenti trasmettono a queste persone, sicuramente avremo un successo. Ho visto che il corso è aperto dai 18 ai 29 anni. Sì. Questo è per cercare di invogliare più i giovani, o magari ci potrebbe essere anche una partecipazione di gente più adulta? Io penso, all'epoca quando l'ho fatto io non c'era questo limite di età. Questa volta è stato, viene dalla regione questa imposizione, così mi sembra di aver capito, sa, dopo sì, i miei superiori diranno meglio, però in questo momento di fare questa fascia, capito? Eventualmente, se ci sarà sicuramente successo, io presumo che ci saranno più persone che chiamano dopo di questa età, faremo sicuramente un corso anche adeguato all'età, se ci sono, ha capito, persone interessate. Certo. Allora ricordo che per avere ulteriori informazioni potete chiamare Lupa Formazione, il telefono è lo 049 875 9777, oppure mandare una mail a upa.formazione@upa.padova.it. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo ancora insieme. I remember dancing in the pouring rain, calling you up just to say your name. We feel like lovers, we feel like lovers, reaching for your hand when you pulled away. Every time I'd leave, you beg me to stay. We feel like lovers, living life undercovers. We sail through love and war, we'd fight for everything the night, the night was all we saw. That's what the darkness is for. Look at the time and the time that it's taken. Is this love like the love we were making? When we were lovers, when we were lovers, when we were lovers, when we were lovers. Two hearts beating in stereo. We never needed maps to tell us where to go. Regola d'arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte, oggi abbiamo con noi al telefono la delegata provinciale regionale dei Sarti, Beniamina Zecchin, che risaluto. Ben trovata ancora. Buona giornata anche a lei. Abbiamo parlato nella prima parte, prima della canzone, di questo corso, ve lo ricordo, è un corso aperto a tutti, confezione su misura, potete chiedere informazioni presso l'UPA di Padova per avere ulteriori dettagli. Ne abbiamo parlato prima, adesso però cambiamo leggermente argomento, parliamo di un'altra iniziativa che avete fatto qualche giorno fa al carcere Due Palazzi di Padova con gli operatori della cooperativa Giotto, che sono quelli che credo permettono ai carcerati di fare alcuni lavori all'interno del carcere. Sì, veramente io personalmente, parlo per me, sono rimasta allibita. Prima di tutto, partendo un po' a monte dall'accoglienza che abbiamo avuto dal personale, appunto, delle carceri, e poi come ci hanno spiegato. Posso garantire che io vedo, ho visto e vedo in questo momento un mondo diverso da come mi immaginavo le carceri, no? Mm-hmm. Quello che mi ha colpito di queste persone, specialmente gli operatori lì della cooperativa, come si prestano e come sono invogliati a fare formazione verso queste persone, che è importantissimo. Posso garantire di aver visto tutte quelle facce che ho visto, quei lavoranti anche nel center, così avrei detto tutte persone per bene, non ho pensato per un minuto che fossero carcerati, proprio perché sono veramente portati a questa situazione. La lavorazione che io ho visto lì è stata una cosa eclatante, quello che più mi ha illuminato, ho visto queste facce che lavoravano volentieri, che erano, non si distraevano, anzi, cioè davano questo saluto, no? Mm-hmm. A me ha colpito molto la formazione che queste persone hanno, perché poi abbiamo anche mangiato insieme. Ho capito. Ricordiamo che all'interno del carcere Due Palazzi c'è la pasticceria Giotto, poi c'è un call center. Sì. E poi che cosa fanno ancora? E fanno minuterie metalliche, fanno quasi tutta la parte di una marca di valigie, loro fanno tutta la parte, addirittura anche le parti interne in tessuto vengono cucite lì all'interno alle carceri. Ecco, quindi state pensando, in collaborazione con l'UPA, di creare una sinergia. Esattamente, anche perché ci spiegavano che sono persone, cioè lì dentro ci sono il 45% di persone extracomunitarie e straniere e rimanenti italiani, però sono pene abbastanza lunghe che variano dai 3 ai 5 anni, quelle minime, fino a un massimo all'ergastolo, per cui hanno tutto il tempo, ci spiegava il responsabile del Giotto, ad imparare, sono molto propensi. E poi lì ho visto c'era una psicologa, dove, perché io chiedevo ma come vengono scelte queste persone per fare queste cose, e loro sempre tramite persone che sono motivate, che hanno attitudini, perciò ci hanno detto che sicuramente potrebbe partire benissimo questa cosa, anche perché sono persone veramente che si impegnano. Ecco, quindi vorreste portare un'attività di sartoria anche, sì, all'interno del carcere, Due Palazzi di Padova. Penso che sia una cosa veramente bella, e dare veramente la possibilità a queste persone di intraprendere qualcosa, insomma, c'è, certo, chi studia o si laurea, chi potrebbe imparare veramente un mestiere. E allora, sicuramente andrai anche come volontaria, per dirle, capito? Speriamo che questa cosa si realizzi e ne daremo ovviamente notizia in futuro. Grazie quindi a Beniamina Zecchin, delegata provinciale regionale dei Sarti di UPA Padova. Una buona giornata a lei e una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Chiudiamo l'appuntamento di A Regola d'Arte di oggi con cosa serve per avviare un'impresa. C'è infatti l'ufficio startup di impresa di UPA Padova che vi aiuta in questo. È il punto di riferimento per chi vuole mettersi in proprio o consolidare la propria attività. Un unico luogo quindi per trovare tutte le risposte alle esigenze della propria azienda. I servizi startup impresa offerti agli associati sono: punto di accoglienza startup aziendale in Piazza De Gasperi a Padova, gestione e compilazione modulistica per startup, variazione aziende nella sede di Padova, procedura telematica pratiche, comunica Star Web, Camera di Commercio, Registro Imprese, Albo di Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, per invio telematico, iscrizioni, modifica e cessazioni. Gestione e compilazione modulistica per deposito bilanci con invio telematico. Registro Imprese CCIA. procedura telematica SUAP di tutti i comuni con utilizzo di vari portali, pratiche telematiche FGAS su Camera di Commercio di Venezia, pratiche telematiche bandi per concessione di contributi Camera di Commercio di Padova, consulenza normativa con il Comune di Padova relativamente al commercio e ad attività legate ai servizi alla persona, gestione sgravio cartelle esattoriali presso la CCIA, consulenza su quesiti posti dal pubblico del mandamento di Padova, consulenza su quesiti posti dai colleghi delle sedi UPA territoriali, compilazione modulistica soci UPA Padova, visure camerali di tipo ordinario storico e certificati, rilascio contrassegni per veicoli commerciali ZTL Jolly e rinnovo blocco fissi, compilazione e presentazione modulistica cartacea alla SIAE relativamente alla convenzione Confartigianato. Per informazioni, ufficio Start Up Impresa risponde allo 049 8206 355. Chiudiamo qui a Regola d'Arte, grazie per l'attenzione, a tutti un buon fine settimana. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.